Ecco, sicuro del suo potere all'interno, munito di conti sostanziosi nelle banche straniere, Pereira poté curare la propria agorafobia dedicandosi alla sua seconda passione, l'altrove. Prima di fuggire, già che non poteva nascondersi che si trattasse di una fuga, convocò il suo sosia. Gli annunciò che partiva per un viaggio e che gli lasciava lì, in quel secretaire, quello lì a tamburo, capito? I discorsi che il sosia avrebbe dovuto pronunciare durante la sua assenza. Ce n'era uno per ogni circostanza. Il sosia non poteva sbagliarsi. Erano impilati e disposti in ordine cronologico. Voglio che l'impari a memoria. Voglio che davanti alla folla le mie parole ti sgorghino dalla bocca come una sorgente di verità. Io non sono uno di quei politicanti europei che leggono i loro compitini in pubblico. Sono un presidente posseduto. Quando parlo è il popolo che si esprime attraverso la mia bocca, il mio residuo di salvatichezza. Tutto sta nel tono, capisci? Il sosia fece cenno che capiva. Per il resto stai zitto. Io sono soprattutto un presidente silenzioso. Il sosia fece voto di silenzio. Altra cosa, non dimenticare le tue origini. Non toccare le donne della mia casta, altrimenti ti taglio le palle. Diciamo che sono un presidente casto, sposato con il mio popolo. Non ho tempo per le donne. Il sosia fece voto di castità. Le donne le tocchi solo per aprire le danze, i giorni di cerimonia. Pereira aveva insegnato il tango al suo sosia. Sul nostro continente, un presidente degno di questo nome deve ballare il tango meglio di chiunque altro. Il sosia era diventato un tanghista senza eguali. Bene, adesso un dettaglio. E Pereira spiegò in sostanza al sosia che se, dopo essersi imbevuto della sua prosa, fosse venuta a lui, il sosia, l'idea di prendere il posto suo del dittatore, ebbene lui, il sosia, sarebbe morto all'istante, come se avesse sgranocchiato una pralina al cianuro. Provaci un po', qui, davanti a me. Prova per un secondo a prenderti davvero per me. Dai, fai uno sforzo. Sei il presidente? Sei il figlio di mio padre? Prenditi per me, anche solo un pochino. Sto aspettando! Non soltanto il sosia non poté immaginarsi presidente al posto del presidente, o figlio di Pereira da Ponte, o figlioccio del vescovo, o semplicemente compagno di Edoardo Rist, con il minimo diritto sulla venditrice di serpenti di Teresina, ma il solo tentativo lo riempì di un tale spavento che era già mezzo morto quando balbettò: «Non posso, lei è lei e io sono io». «Hai ragione», pensò Pereira. «Non mi assomigli per niente. Il corpo è merda prima del disgelo». Ma si limitò a dirgli: «Non dimenticarlo». Su ciò che Pereira fece in Europa, sul numero di anni che vi rimase, sui paesi che visitò, sulle città in cui visse, sulle donne che amò, dobbiamo accontentarci di un capitolo non scritto. Sicuramente però lasciò una traccia ovunque passò. Lo testimoniano la martingala detta Pereira, che fece furore nei casinò della Riviera qualche mese dopo il suo arrivo a Monaco, o fra i giocatori di scacchi l'apertura da Ponte, con la quale ad Amsterdam, nel campionato delle due Fiandre, l'indiano Mir schiacciò lentamente il grande maestro Turati. Chiedersi come Mir fosse venuto a conoscenza dell'apertura da Ponte significa scoprire ciò che legava Pereira a Kathleen Lockeridge, la ballerina, ninfa egeria del campione indiano. A riguardo, la testimonianza del colonnello Edoardo Rist non sarebbe priva di interesse. Quell'apertura con il pedone dell'alfiere nero assicurava la vittoria a Pereira, ma rendeva la partita interminabile. Ci passavamo intere notti in collegio. A Manuel piaceva quella specie di eternità in cui le forze dell'avversario si esauriscono. Non ho mai visto un uomo tanto impulsivo e insieme tanto paziente. Negli scacchi, in politica, in amore e nel silenzio, lui era un'anaconda. Probabilmente Manuel ha insegnato la sua apertura al grande maestro Mir per farsi un regalo d'amore. Il tempo che l'indiano, grazie al suo nuovo amico, impiegava a vincere le partite che non finivano mai, Manuel e la ballerina lo passavano a letto. Ci metto la mano sul fuoco. In fatto di capitoli non scritti, più uno ci lavora, più si rende conto che non basterebbero interi volumi per censire le tracce lasciate da Pereira nel suo soggiorno in Europa. Troviamo la sua impronta in ambiti futili e svariati quali il gioco, la danza, un passo di tango laterale strisciato porta il suo nome, l'abbigliamento, la numismatica, la tauromachia, l'arte dei cocktail, i cocktail, Dio mio, questa varietà così monotona che si riduce sempre al solito retrogusto di rame, e gli intrighi amorosi, corna, rapimenti, inseguimenti, duelli, abbandoni, malinconie, suicidi, che creando intorno a Pereira la fama di ultimo dei neoromantici, ne fecero, secondo Kathleen Rockeridge, il modello di Rodolfo Valentino, la star incontrastata del cinema di quell'epoca frivola, che sempre secondo Kathleen Rockeridge assomigliava a Pereira come due gocce d'acqua torbida in un vetro di Murano. Un'altra pista facile da seguire sono i debiti seminati da Pereira. Debiti di gioco, conti di grandi alberghi e ristoranti di lusso, fatture di sarti, gioiellieri, armaioli, fioristi, calzolai, compagnie ferroviarie e marittime. I reclami piovevano a Teresina. Il sosia aveva il compito di rispondervi imbucando lettere redatte dallo stesso Pereira. In esse, il giovane presidente deplorava che qualcuno si facesse passare per lui in Europa e conducesse lì una vita ben più piacevole della sua, qui a Teresina, sacrificata alla gestione di uno Stato e alle preoccupazioni per un popolo. Aggiungeva che avrebbe saldato volentieri i debiti di quel sosia maleducato se un colpevole sentimento di invidia non glielo avesse impedito.